Faccio un taglio e lì dai capelli. Se vuoi andare giù, butta un fischio, saluterò. Cosa hanno fatto, dimmi, cosa hanno fatto al mio cuore? Cosa hanno fatto di me? Impazzirò, chiuso in un ufficio, sbarrato in tua vita. Stai a brillare dalla finestra, io tu splendi e vai. E ancora mi dirai che hai mentito, ma io ti amo troppo. E quando ne uscirò sarò vecchio, ma aspetterà. Se vuoi.